Si continua l'agenda con una chiamata a Simona Renzi, che ha scritto un libro e che ce ne parlerà subito. Pronto, Simona? Sì, Mi senti? sento. Allora, tu dunque hai scritto questo libro che sarà presentato questo giovedì e dunque ti chiamo così tu puoi parlarne un po'. Va benissimo. Allora, buonasera a tutte e grazie di avermi dato la possibilità di annunciare la presentazione di Intervista con l'assassina su Radio Onda Rossa. La presentazione, come diceva Silvi, sarà giovedì prossimo all'Art Core Gallery in via dei Marruccini 1 a San Lorenzo, alle ore 19. Intervista con l'assassina ha come sottotitolo Una donna che si è ribellata alla violenza, parla appunto di violenza sulle donne ed è assolutamente ispirata ad una storia vera. Certo, il titolo sembra un po' strano, Intervista con l'assassina parlando di violenza sulle donne, ma come dire, per una volta mi sono voluta togliere uno sfizio, no? E far provare il piacere a una donna di uccidere il suo persecutore. Purtroppo questa qui è la parte, quella partorita dalla mia penna. Nella realtà la protagonista, Sandra, non ha ucciso il suo ex marito. Però ogni episodio, ci tenevo proprio a sottolinearlo, ogni episodio che io di violenza che descrivo sul libro è assolutamente la realtà, è tutto realmente accaduto. Un'altra cosa importante, per chi avrà il piacere di venirmi a sentire, a vedere la presentazione, volevo far sapere che una parte dei proventi, di Intervista con l'assassina sarà devoluta al centro antiviolenza Donna Lisa di Roma. Io vi aspetto tutto giovedì, spero che il libro piaccia. E guarda, ridici un po' l'ora, dov'è? Sì, allora, è in via dei Marrucini, numero 1, alle 19, è in zona San Lorenzo, a Roma. E dunque il libro si chiama Intervista Intervista con l'assassina. con l'assassina e speriamo anche che potremo fare una trasmissione più approfondita in cui ci svelerai un po' di più di questo libro e anche come l'hai scritto e perché, Sì, eccetera. avrò assolutamente piacere di farla. Intanto ci vediamo giovedì e noi ti ringraziamo dell'intervento. Grazie a te, grazie a tutti voi. A giovedì. A giovedì. Ciao, ciao. Ciao.